Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hai capito, Umberto? È il marchese Bellotti Stil. Ma davvero, proprio in persona? E chi se ne frega, non ce lo metti? Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding a Stutz Bearcat gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane. Questa riforma è davvero decisiva, non semplicemente importante, per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Guarda che D'Alema nel merito ha una storia personale, per cui su questi punti è totalmente d'accordo. Ma siccome ha un obiettivo politico, tattico, che è quello di distruggere una persona e un'esperienza, fa la sua battaglia, in bocca al lupo, va bene, non è un problema. D'Alema è un esperto di lotta in casa fratricida. Citofonare Romano Prodi, citofonare Walter Veltroni per sapere di cosa stiamo parlando. Buoni. Se ci sono degli amici, no, vi chiedo scusa, ma se ci sono degli amici che non condividono, sarà un piacere per me entrare nel merito. Ho fatto un dibattito con Travaglio, credo che siate molto più educati e civili di lui, quindi siete i benvenuti. Ve l'ho già detto, sarà così fino al 3 dicembre. Mettetele nel metto, oppure andatevene in Burundi se avete i soldi per farlo e la possibilità, mettetevi in ferie, non guardate nessun programma televisivo, fate quello che volete, insomma, se non volete, se no sarà così fino al 3 dicembre. Oppure guardate una bella partita dell'Inter, mi suggerisce Lorenzo Nespoli. Così pensate, meno male che c'è l'Inter. Hashtag, ormai è il mio hashtag preferito, meno male che c'è l'Inter. E tutti i livorosi che mi rispondono, e tu, quando giocate voi, il mercoledì pomeriggio assolbiate Arno. Ma sì, ma... godere delle sconfitte altrui, ma non godo, così è che quando la settimana si fa un po' pesante, quando la giornata è stata un po' dura, quando uno non trova momenti, accende un attimo e dice vabbè, meno male che c'è l'Inter, tutto qua, e poi passa ad altro. Forza, in da. Allora, siamo qui, è venerdì, signori! Sono le 6:33 minuti, la 178esima settimana decisiva per l'abolizione delle province va in cantiere. Nulla di fatto, ma la 179esima alle porte, secondo me, regalerà grandi soddisfazioni. Speriamo. Si parla di referendum ovunque, anche se aprite il forno a microonde, vi parla, esce uno che parla di referendum. Magari è... Luisella Costamagna, questa qualcuno, non lo so. Buongiorno Luisella, no. Come va? Tutto bene? Cosa vuoi che ti dica? Una che mangia toast, tu. Toast e referendum. pane, marmellata e referendum a colazione. Io lo so. Sai che divertimento, guarda. Sai che bello, mamma mia. Uno si rigira dall'altra parte. Non c'è più il pane e la marmellata. Cioè, a me quello che preoccupa non è tanto se Renzi mangerà il panettone a Natale con il referendum, ma se lo mangeranno gli italiani, visto come siamo messi. Ma lo mangia il panettone? Sì, sì, lo mangia. Non lo so io come andrà questo referendum, francamente i risultati dei sondaggi al momento ci sono talmente tanti indecisi che non si sa. Penso che se dovesse vincere il no, assolutamente lui dovrebbe farsi da parte, dovrebbe imparare da Cameron una volta tanto. Lo so, ma attenzione, ci sono, tu hai detto la parola chiave, gli indecisi. Allora Renzi ha un'arma nel cassetto. Cioè, comprarli? No, dai, no. L'arma nel cassetto, convincerli. Per questo, a fianco al guru Messina, venuto dall'America, c'è un altro guru, un paraguru, il secondo guru. Si chiama David Hunter, cacciatore, Hunter. Affiancherà Messina ed è il guru statunitense che conquista gli indecisi al voto. Sì, eh? In realtà li conquista con le misure della legge di bilancio, cioè con i regali, imprenditori, pensionati, ecco. No? Il ponte sullo stretto, ecco. Io non so cos'altro si inventerà. Il ponte sullo stretto, non lo so, però Luisella, insieme a te abbiamo chiamato per parlare di questo, anche loro ne hanno combinata una, quelli del Foglio, mamma mia, Vincino! Eccoci. Vincenzo, io ti ammazzerò! Eccola qua, la tua canzone è icona. Ricordate il testo, Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere, cantava Alberto Forti. È abbastanza vero, guarda, il grande Alberto Forti. Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Sei d'accordo con questo testo di Alberto con Forti? Sì. Allora, caro Vincino, ne avete combinata una voi del Foglio, ne avete combinata una. Ieri col direttore c'era Asa che ha intervistato Renzi sul volo Verona-Roma, sul volo Verona-Roma. Apriamo il Parlamento perché ne avete combinata una. Io... Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente. Sinceramente non l'ho capita bene, ma adesso sicuramente Luisella Costamagna mi riprenderà su questo. Già Veronica Gentili su Twitter mi ha risposto, ti spiego io qual è il problema, sciocchina, perché mi chiama così, si sa. Qual è il problema di dire prendiamo pescare i voti anche a destra? Cioè quando uno vuole vincere una competizione, chi che sia e quale che sia questa competizione, pesca i voti dove la gente vota, tra la gente che vota, non lo so. Però Vincino l'ha detto a Claudio Cerasa, pescheremo i voti a destra, vinceremo con i voti della destra. È un grave problema, Vincenzo, che no, dici? È stato tutto il povero Cerasa, tutta una giornata a pescare Renzi, ai suoi 27 appuntamenti sopra, sotto. Infatti oggi stamattina sul Foglio c'è la cronaca di questa terribile giornata. Ma sì, perché l'ho visto ieri, era tutto magro, così ancora scosso da questa esperienza terrificante. Però ha portato a casa questa dichiarazione ha portato a casa questa dichiarazione che ha fatto discutere, ha fatto litigare Gotor si è arrabbiato tantissimo. Vabbè, ma questa è così la storia. Cioè, lui già il PD ce l'ha praticamente. Insomma, quel suo 200% delle cose è tutto là dentro. Sì, non è che... E poi deve acchiappare da qualche altra parte, per cui insomma, cioè va bene, che... no? Perché qui pare uno scandalo. È amato dall'altra parte, è amato. Cui, cioè, assolutamente, non è che il centrodestra istintivamente l'ama follemente. Sì. Non è che, non so, Luisella, cui... qual è il problema di pescare i voti a destra? Che scandalo Al di là del fatto che teoricamente, ma molto teoricamente, dovrebbe essere il segretario del Partito Democratico, quindi teoricamente un partito che si definisce, non dico di sinistra, ma di centrosinistra, per cui voglio dire, andare a conquistare i voti a destra, che è una retorica che ha accompagnato qualunque partito in questo paese da sempre, è una retorica assolutamente folle. Peraltro Renzi conquista i voti a destra senza dirlo esplicitamente, ma nei fatti, perché tutte le riforme, le misure che ha messo in campo da quando è al governo in questi 2 anni e mezzo sono tutte riforme chiaramente di centrodestra. È un dato di fatto che stia realizzando il programma di Berlusconi, e infatti, voglio dire, lo spaldamento del centrodestra è perché lui ha occupato quel posto lì. Altro che Parisi, io gliel'ho detto l'altra sera a Parisi, che era in diretta con me alla Gabbia. Gliel'hai cantata. Il vero erede di Berlusconi è nei fatti Renzi, per cui che ci sia stato un cambiamento proprio di Parisi l'ha presa male. Parisi l'ha presa un po' male, perché infatti gli avevo chiesto delle larghe intese, non mi ha voluto più rispondere, ma è un dato di fatto, cioè gli ha copiato dalle lavagnette, quindi nella forma e nei contenuti. Renzi è assolutamente di centrodestra berlusconiano, dalle lavagnette di Del Debbio all'abolizione dell'articolo 18 al, quindi vedi che a maggior ragione non c'è problema a pescare, non c'è scandalo, occhio, perché questa fu una strategia, non cito a caso D'Alema, che anche D'Alema provò a seguire, non so, quando non ha la stoffa non ne ha la stoffa, no, però poi l'elettorato di centrodestra tra la copia e l'originale sceglie sempre l'originale. Quindi vabbè, ma questo sarà un problema di Renzi, insomma, se questa operazione non gli riuscirà la pagherà politicamente, però non so. Vincino, secondo te gli riesce. C'è un vuoto politico sicuramente, ma c'è un vuoto totale programmatico a sinistra, come c'è un vuoto totale di classe dirigente del 5 Stelle. Cioè il ritorno di Grillo è il fallimento più totale dei 5 Stelle, perché in 5 anni non sono riuscito a formare uno straccio di dirigente. Ma perché? Perché se i dirigenti hanno paura di dire mezza parola che può far arrabbiare Grillo, e quindi chiaramente se non c'è contenzione politica, non c'è politica. Se io non posso avere la libertà delle idee, perché se sbaglio mezza cosa mi espellono dal Senato o dalla Camera, e quindi questo qua, in questo vuoto totale, l'unico che cade le idee in questo momento è lui. È il Grillo. Per esempio, vedete, Vincino. Vincino ha appena detto che Claudio Cerasa, suo direttore, ha passato una giornata d'inferno con Renzi. Non per questo da domani non potrà scrivere, non potrà fare più le sue vignette sul foglio. Glielo auguro, adesso non lo so, lo chiedo di Rema Cerasa e poi vediamo. Vincino, gli puoi tirare fuori il centrodestra, il centrosinistra, ma lui ha un'ossessione alla Roger Rabbit, ammazza la vecchia nei confronti del Movimento 5 Stelle. Sì, lui lui è molto amico del 5 Stelle, è amato dal 5 Stelle. Non hai bisogno neanche di dirlo, lui appena... Dice, buongiorno, come sta? Come sta, Vincino? Questi falliti, disgraziati, farabutti. Voi ditemi se non è vero, il ritorno di Grillo, se non è un fallimento di costruzione... Sì, però effettivamente si stava parlando di Renzi e la destra. Sì, ma stiamo parlando del vuoto da tutti i lati. No, per... dice che è colpa dei grillini. No, però giustamente lui ha detto, parlava del vuoto politico, c'è un vuoto programmatico a sinistra totale, la sinistra non propone idee da 10 anni, no. C'è un vuoto totale di dirigenza e di programmi, di cose dei 5 Stelle. È colpa di Grillo? Sta dicendo che Renzi è l'unico che a destra c'è il vuoto. Non andare a dormire. Sono espulso qua. È espulso dall'aula 10 giorni. Il ragionamento di Vincino era Renzi è l'unico che colma quello che doveva essere di sinistra, si impone perché c'è un vuoto ovunque. Grillo, questo è il risultato del ragionamento sottilissimo. Si impone perché c'è un vuoto ovunque, l'ultimo vuoto è dimostrato dal fatto che Grillo vede lui sto vuoto. A me non sembra che ci sia un vuoto, visto che comunque il Movimento 5 Stelle, casini, errori e polemiche a parte, è ancora nei sondaggi primo o secondo partito. Ma i sondaggi non è questo, sto parlando di classe politica, di mancanza di una classe, non ha costruito in 4 anni una classe politica. Ma ancora, Vincino, ma loro sono uno vale uno, ancora i dirigenti, uno vale uno. Ma che uno vale uno, dai! Sì, ma infatti per te la Boschi è assolutamente una una figura istituzionale di altissimo profilo, molto meglio. Non ho detto questo assolutamente, se vedi i miei disegni non ho mai raccontato questo, guarda, assolutamente, guarda. Comunque mette pace su tutto, mette pace su tutto. Devi fare dire delle cose che non ho mai pensato. Mette pace su tutto, Briatore con questa frase, finalmente, perché è importante chiarire. Uno da ieri, dall'altro ieri, dice: ma allora questo ponte lo deve fare, questo ponte non bisogna farlo. Secondo me Briatore si schiera e gli italiani sono chiari nella loro idea. 6:44 del mattino di venerdì 30 settembre, abbiamo chiarito che succede, Briatore. Credo che questa sia non una buona idea, un'ottima idea. Il ponte, come il Colosseo, dovrebbe diventare un simbolo dell'Italia, la cultura, l'Italia che si muove, le costruzioni, e la Sicilia e la Calabria, che sono due regioni spettacolari, avranno delle infrastrutture. Il ponte come il Colosseo, e chi protesta come Luisella Costamagna, la sento già, Briatore neanche per lei. Ma perché c'è questo odio sociale, no? Questi fighetti della sinistra radical chic, che poi alla fine sono solo pronti a criticare. Quando fanno una roba, non la fanno mai loro criticano, però non è gente del fare, è gente che pur di non fare non ti faccio fare. Come dire, fighette di centrosinistra, ecco, cara Luisella, eccola qua. Ma guarda, io come Briatore, non so se ti ricordi, avevo già avuto uno scontro in cui mi diede della maestrina, che peraltro non ritengo essere un'offesa. E fighetta di centrosinistra, anche se non era rivolta a te? Fighetta di centrosinistra invece, anche se non era rivolta a te, come ma queste sono sciocchezze, non è rivolta a me, ma voglio dire, la retorica del fare un'opera assolutamente inutile, dannosa per l'ambiente, per i costi, per il malaffare che si alimenterà soprattutto in quelle zone. Abbiamo visto l'Andrangheta all'Expo di Milano, figuriamoci tra la Sicilia e la Calabria, dove le infrastrutture non sono rappresentate certo dal ponte sullo Stretto, ma magari da ferrovie e strade. Questa è l'obiezione, insomma, è l'obiezione di dire allora non si fa niente. Ma aspetta, perché devo andare al traffico. Aspetta, riprendiamo da qua, perché qua abbiamo un rappresentante della Sicilia vera. Quello che non si neanche si degna di andare a Catania, per dire, no? Vincino, da Mondello. E allora dopo il traffico mi dirà che pensa di sto ponte. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... Buongiorno, io a proposito di questa storia del ponte penso che Renzi abbia preso alla lettera l'invito di Obama a costruirne, e non capendo che magari era una immagine, mentre lui il ponte lo vuole costruire, nonostante nel 2012 avesse detto di no. Facciamo il ponte sullo Stretto, così se arriva l'ISIS farà prima a passare sul continente. E stamattina è un cenerentiano nel grillino. Sei mischio come tutte le mattine. Ciao! Hey babe, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. 80 candeline! Non so se lei mi conosce, caro Presidente, io sono il 30% del suo fatturato. Niente, che dirle, volevo farle i miei personali auguri nella convinzione che quando un giorno io avrò 80 anni mi telefonerà lì personalmente per farmi gli auguri. Perché, cari italiani, questo me li farà gli auguri quando avrò 80 anni. Vedrete che sarà così. Su col morale. Il grande Checco Zalone che si presenta a video a Berlusconi, sono il 30% del suo fatturato. Grande Checco Zalone era. Vabbè, caro Vincino, allora, eccoci. Questo ponte. Allora, io dal 69, quando inizia la storia, che io sono assolutamente favorevole al ponte ultra favorevole, soprattutto dopo aver passato 300 ore ogni anno scendendo in Sicilia con la macchina, 3 ore a Messina aspettando il traghetto, poi con questi traghetti avanti e indietro con non questo diesel più, inquinante pazzesco, c'è un problema di inquinamento dello Stretto pazzesco. Il ponte, io per dire, io tra Roma e Milano non ci vado più in aereo. entro in treno, paff, due ore e mezza dopo sono a Milano. Io vorrei fare lo stesso tra Roma e Palermo, uguale. E prima bisogna sistemare, però da Roma a Reggio Calabria. Dobbiamo sistemare da Napoli a Reggio Calabria, perché fino a Napoli ci arriva, fino a Salerno ci arriva. E poi da Messina a Palermo, e in mezzo faccio il ponte, e via. E così io in quattro ore arrivo felice da Roma a Palermo senza problemi. Stanno costruendo 200 ponti. Ma io dico, ma caro Presidente del Consiglio, vogliamo rendere più facile la vita a Vincino? Vogliamo renderla, vogliamo farlo arrivare a Mondello in quattro ore a mangiare, a bere lo zibibbo e a mangiare i cannoli? Non lo so. Vogliamo rendere più felice? E invece no. Abbiamo costruito un ponte tra la Danimarca e la Svezia, che sono due nazioni diverse. Ci rendiamo conto. No, beh, anche Calabria e Sicilia. Traghetti meravigliosi. Anche Calabria e Sicilia non è che sono tanto. Non sono la stessa nazione paro paro, però comunque si assomigliano. Si capiscono. Tu capisci quando parla uno di Reggio Calabria? Quando parla stretto no, assolutamente. Vedi? Allora, ma nemmeno il catanese quando parla stretto lo capisco perfetto, non è che, ma alcuni quartieri di Palermo pure là tra di loro ci sono molte differenze. Vabbè, niente Luisella, questa storia ma tanto tra due giorni non se ne parlerà più, tranquilla. Poi se al prossimo No, ma a parte essersi smentito, perché nel 2010 e nel 2012 lo ricordavano i tuoi ascoltatori, Renzi diceva l'opposto, è significativo che il primo a prometterlo in campagna elettorale nel 92 fu Craxi, poi Berlusconi, poi Renzi, per capire che poi la DC che parte lo promise. Questo... Sì, infatti Renzi è della DC un po'. Renzi è. Storia parla per lui, il percorso è quello, voglio dire. Va bene, ma è il momento di... Lo so, lo aspettate sempre, il Brunetta del giorno. So che Luisella Costamagna, se non ascolta il Brunetta del giorno, non passa una buona giornata. Vedi che già ti metti di buon umore? Già ti dico Brunetta e tu sei contenta. Io faccio questo appello, non capisco perché viene invitato in TV, cioè non ne faccio una questione antidemocratica, perché sempre va a finire con che litiga. Cioè sempre, allora chi lo invita lo sa già, no? Che si va a finire. L'ultima spettacolare performance è da Lilli Gruber. Allora, voglio parlare delle pensioni. E comunque, Brunetta, si calmi, perché no, si fanno delle domande, Gruber, si fanno dei dibattiti. Gruber, quindi si non è che no, Gruber, si io l'ho avuta Gruber, ospite si varie volte. Si cambierei, Gruber. L'ho avuta Gruber, ospite si varie cambierei. Volte. Anch'io. E quindi conosco anch'io, il suo temperamento. Anch'io conosco la sua allora, attitudine. Brunetta, oggi... Questo è il suo meccanismo, a un certo punto ha una prontezza a replicare. Gruber, onorevole Brunetta, onorevole Gruber, in genere attacca anche questa, onorevole Gruber, europarlamentare ex Gruber, niente, è pronto così e basta. Da quel momento tutto va in vacca, perché non si può più fare nulla. Soprattutto sentite... il Brunetta, È un peperino, Senti Vincino, per esempio, come liquida Parisi, con la sua altra vecchia tattica. Altre priorità. L'onorevole Brunetta a Parisi, se è d'accordo sulle cose che dice, per esempio, sul DEF. Chi è Parisi? Ah, ecco. Il gran classico, chi è Parisi? Chi è Parisi? Quando dice, ma scusi, non so, Bersani, chi è Bersani? Chi? Vabbè, vabbè, niente, che dobbiamo fare? Il Brunetta del giorno l'abbiamo sistemato, caro Vincino, cara Luisella. Vincino, a Roma, hai visto che anche il ragioniere generale, così sei contento? Ecco, bravo, dai una bella notizia. La città si sta inselvatichendo, è una cosa, proprio è tipo la giungla delle Amazzoni, proprio alberi, cose, non vorrei che piante entrano. Sono comparsi gli orangotan. Quarta fila, proprio, è una città totalmente sgovernata. Allora, folle di turisti, di cose che salgono, scendono, le foreste, gli oranghi-tanghi sono ricomparsi, esatta, da tutti i lati, è una sembra un film di fantascienza sì. Sappiate che oggi pare oggi pare arriverà il nuovo assessore al bilancio, signori, pare che sia un giudice contabile tale Tommaso Cottone in pensione, fa pure rima, è in pensione. Speriamo che duri, se sarà lui, un po' di più. Ma uno loro che sapesse far di conto, non ce l'avevano. Non lo so. Cioè, la gente li ha votati. Luisella, è così. Sotto, bravo, di 5 Stelle sa far di conto al bilancio. È così. Prima Roma era Zurigo, davvero, era la Svizzera, c'erano tappeti per le strade. È sempre perfetto, stata Roma. No, Roma, non c'è stato mai Mafia Capitale, abbiamo visto adesso. Ma Mafia Capitale è una balla totale, guarda, cioè, non è che hanno levato la mafia, non c'è mai stata a Roma quella là così, quella, vabbè, non è che no, Vincino, fermati, di una cooperativa di sinistra. Fermati, che però devo finire così. Luisella, non sfondiamo su questo, non ci sente da quell'orecchio, che dobbiamo fare. Guarda, la prossima volta, Luisella, ti invito e gliene canti quattro tu a Vincino, come si deve, che narra la Roma come Mondello. Va bene, dai, alle 6:55 vi devo ringraziare, vi saluto e vi do un abbraccio. JP Morgan Asset Management vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, eccoci qui, dai che è venerdì, alle 7:20 minuti, siamo pronti nella rassegna stampa di 24 mattino a raccontare quello che succede attraverso i giornali. Allora andiamo a sfogliarli. È venerdì, urliamolo tutti insieme, Milan, è venerdì! Allora, e per la precisione, venerdì 30 settembre, intanto con i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, rally dei petroliferi, borse in rialzo, e c'è da dire che oggi le aperture sono davvero diverse, diversificate. La Stampa, per esempio, intervista il ministro dell'economia Padoan, manovra trattativa difficile con l'Unione Europea, così dice il ministro, poi vedremo che cosa nel dettaglio. Roma invece, ancora l'apertura del Corriere della Sera, Roma, nuovo caso giudiziario, assessore di Raggi indagata con imputato di Mafia Capitale, è sempre Paola Muraro, e anche il Messaggero, Raggi si aggrava il caso Muraro. Mentre per Repubblica, soldi, comizi, web, duello sul referendum, la sinistra PD contro Renzi. Libero apre così: ai profughi 35 euro, ai terremotati solo 25. Mentre l'apertura del quotidiano La Verità, in pensione dopo 5 anni, ma vale solo per gli immigrati. Se non versano contributi per almeno 20 anni, i lavoratori italiani perdono tutto il tesoretto. Agli extracomunitari invece basta poco per potersene tornare a casa incassando l'assegno. Mentre per il Fatto Quotidiano, la manovra abracadabra con una mancia per il sì. Questo è il titolo di prima pagina. Ma voglio partire dal titolo principale di Avvenire per iniziare a raccontare la notizia che ci porta in Siria, perché nel silenzio un po' dei giornali, tranne di alcuni, in Siria si sta consumando veramente una guerra atroce. Allora, il titolo di apertura di Avvenire è Siria, oscura spirale. Il Papa denuncia gli interessi dietro la guerra. Stati Uniti e Russia ai ferri corti, tregua più lontana. Cosa sta succedendo in Siria? Beh, intanto lo racconta uno dei pochissimi inviati sul posto, vale a dire Giordano Stabile, che si trova ad Aleppo, la città più martoriata in questo momento. Racconta per La Stampa, pagina 9, Giordano Stabile: ad Aleppo, sulla linea del fronte, così distruggiamo il tunnel dei ribelli. O dovete sapere che lì, in Siria e soprattutto ad Aleppo, l'esercito governativo, quindi di Bashar Assad, sta cercando di riconquistare la città che in parte è in mano ai ribelli. E l'esercito regolare di Bashar Assad è appoggiato dai russi che bombardano. Questo sta creando anche una crisi diplomatica fortissima tra Stati Uniti e Russia. Intanto la cronaca. Il terreno si è squarciato ed è collassato. Al posto della strada è rimasto un grande avvallamento, almeno 50 metri. Sotto la sabbia e le pietre bianche sgretolate c'era il tunnel, una lunga galleria, forse 300 metri, scavata dai ribelli per sbucare alle spalle dell'esercito nella parte nord-occidentale della città vecchia di Aleppo. e il destino di Aleppo si decide qui, nelle periferie, soprattutto a nord, nella zona della tangenziale del castello e nell'ex campo profughi palestinese di Andarat, e a sud, nei quartieri adiacenti alla strada di Salah ad-Din, accesso meridionale alla città. La tenaglia delle forze di Bashar Assad, che si è chiusa a luglio, ora schiaccia lentamente gli insorti in uno spazio sempre più ristretto, isolato dopo isolato. Racconta Giordano Stabile che in questo contesto di guerra muoiono i civili. I giornali oggi raccontano di almeno 96 bambini uccisi in una settimana ad Aleppo. L'inviato per l'ONU per cercare di mediare in una situazione dove da mediare davvero c'è poco, si teme, è Staffan de Mistura, italiano. Intervistato da Vincenzo Nigro su Repubblica, racconta: bombe su scuole e ospedali, i civili sono intrappolati nella città. È chiaro, dice Staffan de Mistura a Repubblica, che nei bombardamenti di Aleppo Est sono stati colpiti intenzionalmente ospedali, scuole, panetterie, mercati, per rendere impossibile la sopravvivenza dei civili. Aleppo è attaccata dai russi e da Assad perché è una città simbolica, è la Milano di Siria, è il luogo che il governo vuole riconquistare a qualsiasi prezzo. Ad Aleppo, nella zona controllata dai governativi, vivono 1.600.000 cittadini, mentre 350.000 vivono nella zona controllata dai ribelli. E si usano le bunker buster, le bombe progettate per sfondare bunker di cemento armato che proteggono aerei da caccia o altre installazioni militari. Questa è lo sfondo e la crisi diplomatica. Gli Stati Uniti, con il segretario di Stato Kerry, avvertono: la Russia smetta i raid oppure basta colloqui. C'è la denuncia dell'UNICEF che appunto dice: uccisi soprattutto i bambini, ma non solo, i civili in generale. Ecco, questa è la situazione di Aleppo. Mentre noi parliamo del referendum, per carità, cose importanti, eccetera, però non dimentichiamo che ci sono anche cose un po' più grandi di noi e magari anche un po' più importanti. E oggi i giornali, alcuni, la stampa in primo piano, mette Aleppo al centro dei racconti. Per venire alle cose italiane, invece, una notizia che ho trovato su Repubblica e che mi colpisce è questa. Positivamente mi colpisce: via 120.000 slot machine dai bar. Ci siamo, pare, secondo Repubblica, Roberto Petrini a pagina 8, arriverà al taglio del 30% con la riforma del gioco d'azzardo legalizzato. Il sottosegretario Baretta dice: il testo varato entro il prossimo 20 ottobre. Insomma, è pronta a scattare l'operazione di eliminazione del 30% delle slot machine presenti sul territorio italiano nei bar, tabacchi, esercizi generalisti come ristoranti, alberghi. Circa 120.000 macchinette su un totale di 380.000 dovrebbero andare in soffitta. E speriamo davvero. Mentre qui, signori, c'è una donna italiana che ha fatto causa all'INPS. Ha chiesto un decreto ingiuntivo perché vuole che il bonus per i figli che ha passi da 500 a 1.500 euro, che venga triplicato. Peter Bescapè dice: e su quale base chiede questo? E su quale base? Perché ha 15 figli. Il labiale di Peter Bescapè non è pubblicabile, si direbbe su un giornale, non è mandabile in onda. 15 figli, spero di non averle dimenticato alcuno. No, 15. Ho 15 figli e quindi, racconta Al Giorno nell'intervista di Saverio Migliari, la signora Milva Iannotti, 48 anni, 15 figli, dichiarazione sua: la maternità per me è una vocazione. Potevo usare lei per il Fertility Day invece che altre stupidate. Lei dice: l'INPS prevede un assegno da 500 euro mensili a partire dal quarto figlio? Beh, allora io per l'ottavo ne chiederei 1.000 e per il dodicesimo 1.500, che peraltro gliene manca uno, e facciamo 2.000 e chiudiamo il discorso. Comunque, la questione è molto seria. Ha fatto un decreto ingiuntivo presentato al giudice di pace e per un pelo la signora Iannotta ha sfiorato il poker. Eccolo qua, infatti al sedicesimo nato la richiesta sarebbe stata moltiplicata per 4, è quello che ho notato anch'io. Il primo figlio è Matteo, 25 anni, e lì mi è cambiata la prospettiva, dice questa mamma. In un solo colpo, Luisa, Claudia, Concetta, gemelle, 23 anni. E questo, devo dire, non ce l'aspettavamo. Allora, potevano fermare. E invece no. Da lì tutto in discesa. Stefano, Gloria, Francesca, Massimo, Luca, Ernesto, Virginia, Rosa, Giulio, Gaia, Carmelo. Basta, sei l'ultimo di 15 figli, guardo Carmelo Lauricella, di 15 figli di questa signora che ora chiede all'INPS di triplicargli il bonus, di triplicare loro il bonus. Ho 15 figli, triplicatemi il bonus, la super mamma fa causa all'INPS. Il Giorno racconta questa storia, mentre questa è una storia molto dolorosa che riguarda questo diario di questa 17enne. È il premio sicuramente per l'articolo che mi fa pinzare della giornata. È la storia di questa francese, Émilie. 17 anni, viveva a Lille, amava gli animali, la lettura. Si è tolta la vita, si è suicidata e ha raccontato in un lungo diario come venisse bullizzata a scuola. Oggi questo diario a stralci viene pubblicato dal Corriere della Sera, pagina 21. Come quando si rifugiava in bagno e scriveva: le toilette sono il solo angolo di questa maledetta scuola dove sono sicura di stare tranquilla. O il cortile, invece, un dramma. Mi sentivo gli sguardi addosso, i loro sorrisetti quando mi fissavano. Sentivo che guardavano le mie scarpe da ginnastica vecchie, i jeans sfilacciati. Ho sentito qualcuno chiamarmi Barbona. 10 metri di cortile, che era come un percorso da combattente, schivare colpi, calci, gli sputi, chiudere le orecchie per non sentire gli insulti e le prese in giro, trattenere le lacrime. E poi la classe, ho sentito il compagno, la sai la novità, ridacchia un ragazzo? Pare che diano un premio ai secchioni più brutti del paese. Davvero, risponde il compagno, scommetto che abbiamo la vincitrice in classe. Insomma, una vita così, annotata giorno per giorno, giorno per giorno, finché poi si è tolta la vita. Il diario di Émilie, suicida per i bulli, sul Corriere della Sera. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan aspetta Mauro Meazza che lo venga a prendere con l'ape. Vabbè, è chiaro, cari ascoltatori. Allora, alle 7:36 minuti siamo tornati qui. I giornali che cosa propongono? Beh, intanto torniamo sulla questione del referendum. L'intervista che ho letto ieri sul Foglio a Renzi ha fatto molto discutere, soprattutto nel passaggio: il referendum si vince a destra. Polemiche su polemiche. Con Renzi che reagisce alle accuse, dice: rifiutare i voti di destra è da perdenti, insomma i voti non hanno odore, questo è il concetto, no? E se per vincere il referendum van bene i voti di destra, van bene anche i voti di destra, ma d'altronde in Italia si fa polemica su tutto, da qui al 4 dicembre sarà un disastro per quel che mi riguarda, io lo vivo così, come un disastro. C'è da notare sul referendum, forse l'articolo più interessante lo scrive Carlo Bertini a pagina 7 della Stampa. La nuova arma, secondo Renzi, potrebbe essere questa, cioè cercare di convincere gli indecisi. Gli italiani indecisi sarebbero tra un 15 e un 35%, secondo me sono anche molti di più, però non ho fatto sondaggi, ma comunque questo è il concetto. E allora, insieme a Jim Messina, il guru americano che è stato pescato per aiutare nella comunicazione Renzi, ce n'è un altro. Si chiama David Hunter, cognome altamente simbolico, cacciatore, Hunter. Lui è dato come un guru americano, proprio insegna a convincere gli indecisi a passare dalla tua parte. Nella legge dei grandi numeri, che sono la passione degli americani, l'indeciso da convertire occupa uno spazio dal 15 al 35%, che ancora non sa cosa fare. Hunter da stasera comincerà a Firenze il training di volontari che poi andranno porta a porta in ogni regione per cercare di convincere gli indecisi. Attenzione, cari italiani, arriva il cacciatore, David Hunter. Va bene, rimaniamo sulla stampa che oggi intervista il ministro dell'economia Padoan. E allora devo ripescare dalla prima pagina, è Alessandro Barbera che lo intervista. Eccolo qui, parla di manovra, trattativa con l'Unione Europea difficile, non usa questo aggettivo Padoan, sono a pagina 2 della stampa, ma dice trattativa intanto è un termine fuori luogo, con i commissari ci sentiamo sempre, c'è dialogo continuo, senza dubbio ci sono punti ancora da chiarire. Riguardo al deficit al 2%, noi lo riteniamo sufficiente a considerare l'Italia in una situazione conforme alle regole. La domanda è: fonti europee dicono che non c'è l'accordo sull'indicazione di un deficit al 2%, e Padoan risponde: noi siamo in una situazione conforme alle regole. Poi chiedete 7 miliardi per gestire migranti e sisma. È uno scostamento, secondo noi, del tutto giustificato, risponde Padoan. Con la Commissione partiamo da punti di vista diversi, in grande trasparenza. E poi dice sulla Brexit, finora l'impatto è stato contenuto, ma lo dobbiamo alla risposta magistrale del governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney. I danni si vedranno con il tempo. Poi parla di che cosa Padoan? Beh, non fa i numeri sulla manovra. Alla domanda, l'ammontare della manovra è confermato attorno ai 25 miliardi? Uno dei problemi del mestiere del ministro del tesoro, risponde Padoan, è che non si possono citare cifre prima che siano certe, per cui mi astengo. Risponde anche a una domanda sulle tensioni correnti raccontate dai giornali. Dice Padoan, fra me e il presidente, l'impostazione strategica della manovra è stata definita molti mesi fa e non è mai stata in discussione. Certo, scrivere una legge di bilancio non è un lavoro semplice, occorre tenere conto di molti aspetti, politici, giuridici, economici. Nel dibattito è normale che ognuno esprima le proprie opinioni e possano emergere incomprensioni. Insomma, come vedete, molta diplomazia nel rispondere, però con l'Unione Europea trattativa non certo semplice, anche se non usa il termine trattativa, e con Renzi discussioni, franche discussioni, di solito si dice così quando si questiona in maniera un po' vibrante, franco confronto, ecco, un franco confronto, tradotto hanno un po' litigato. Comunque, a proposito di interviste sull'economia, oggi il Foglio con Marco Valerio Lopreta intervista il direttore di Banca Italia, numero uno di Banca Italia, il governatore. Visco, Ignazio Visco, che parla di stabilità, dice i nostri difetti relativi all'Italia vengono da lontano, il primo si chiama debito pubblico, l'altro è l'impreparazione rispetto a due grandi eventi avvenuti negli anni 90, la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica che vi era annessa, poi l'adesione all'unione monetaria con l'abbandono del tasso di cambio. Adeguare l'ambiente economico in cui si svolge l'attività di impresa al nuovo contesto non è cosa da realizzare in pochi anni. Le imprese si stanno adeguando, ma con ritardo. In tutti questi anni la produttività è stata stagnante. Hanno scarseggiato gli investimenti, abbiamo puntato soprattutto sul contenimento del costo del lavoro, sfruttando male la flessibilità introdotta nelle forme contrattuali. E poi dice Visco, certo l'incertezza politica non aiuta, visto che si vota in vari paesi e c'è anche la scadenza del 4 dicembre. E sulle regole europee, il fissare lo sforamento del deficit, superare il 3% del deficit sarebbe una violazione delle regole europee, che sono il perché l'unione monetaria è incompleta e quindi alcuni vincoli precisi hanno il compito di evitare conseguenze finanziarie negative per tutta l'area. Parla anche di pensioni. Visco, alla domanda del Foglio sulle pensioni, dice «Oggi, dopo un percorso di riforme, la previdenza pubblica ha una condizione finanziaria equilibrata, è un risultato positivo e su questo fronte siamo intervenuti prima e meglio anche di altri paesi europei. L'equilibrio finanziario raggiunto è bene che non sia cambiato. Certo, non è impossibile pensare a ritocchi per alcune categorie di lavoratori e alcune situazioni». Di fronte a ciò, ecco questo è il punto centrale, un approccio immediato che incentivi l'uscita di alcuni lavoratori da quei settori specifici in cui c'è un eccesso di forza lavoro è comprensibile, ma è sbagliato pensare che favorendo in maniera sistematica l'uscita dei lavoratori più anziani si incentivi l'ingresso dei giovani. E questa è la critica importante di Visco. perché dice non fosse altro perché molte di queste uscite sono legate a cambiamenti tecnologici radicali e a sparizioni tout court di certi mestieri. Quindi non è detto che con l'APE, traduciamo, con l'APE, incentivando l'uscita al lavoro, si ricambi la generazione facendo entrare i giovani. Questo dice e ammonisce il governatore di Banca Italia. A proposito dell'APE, Roberto Mania oggi intervista su Repubblica Susanna Camusso dopo l'accordo con il governo, e vedete che la Camusso già frena e dice: guardate che non è un accordo ma un verbale di sintesi. Semplicemente in un verbale di sintesi ci sono diversi punti di vista, ma noi per esempio siamo contrari all'APE, cioè all'anticipo pensionistico col prestito bancario. Nessuno, dice la Camusso, accetterà di pagare per smettere di lavorare. Quindi l'accordo di qualche giorno fa è già diventato un verbale di sintesi. Certo, dice Camusso, l'importante, almeno il clima è cambiato, prima non volevano nemmeno vederci, si negava addirittura la rappresentanza, ora ci si confronta. Comunque, tutto questo ovviamente anche sul Sole 24 Ore, e tra l'altro è venerdì, e tra l'altro se avete una settimana decisiva alle spalle, ricordate sempre, sempre che vale il meno male che c'è l'Inter. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, volevo parlarti appunto dell'APE, perché sì, l'APE, come sai, è una etrina, cioè suddivisa in tre parti. Da una parte si parla di un'APE social, dall'altra dell'APE volontaria, dall'altra dell'APE che può essere sostenuta dall'azienda. Tutto questo, come ricordavi, come ben ricordavi, è ancora affidato a un verbale, quindi non c'è niente di scritto, lo scopriremo solo vivendo, ecco, diceva il poeta, che sempre noi teniamo come nostra stella polare. Ti vorrei però dire che domani cambiano le regole sull'anatocismo. Adesso non pensare, tu sai cos'è l'anatocismo. Quindi mi studio le nuove, non è inutile studiare le vecchie. Vabbè, allora, se l'anatocismo è l'applicazione di interessi, sì, su interessi, ed è, certo, un problema che riguarda appunto tutti i conti correnti bancari. Ci sono stati anni di grandi liti, grandi cause anche, adesso cambiano le regole da domani. Tutte le nuove regole su norme e tributi di oggi. Quindi leggi la prima pagina di norme e tributi, come sempre devi fare religiosamente, sì, e così capirai le regole che debuttano da domani, importanti sull'anatocismo. Oh, ti voglio anche dire che peraltro da domani cambiano anche i tassi soglia. Attenzione, chi chiede prestiti per il credito al consumo, ci sono dei valori massimi che possono essere applicati, altrimenti si cade nell'usura. Sono però tassi abbastanza alti rispetto a quanto è il costo del denaro, quindi attenzione ai tassi soglia. Possiamo far vedere la vignetta invece di Domenico Rosa sugli esodati, sulle pensioni in realtà. Ecco, perché da questa, secondo me, gli ascoltatori, questa vignetta secondo me è chiarissima, sì. E mostra appunto che le pensioni sono tuttora un, vabbè, ma così, è chiara, non c'è un percorso da trovare, no, è chiarissimo, si vede benissimo. Degli esodati già hai detto, naturalmente riferiamo sul Sole 24 Ore. Oh, poi servirebbero 7,7 miliardi, come molto stai bene, messo? Stai sempre con i tuoi due urini? Sempre lì. Lì da braccino corto proprio, eh? Vabbè. Esatto. Allora, no, servono 7,7 miliardi, sono quelli che stiamo andando a negoziare con l'Unione Europea, ne parlavi poc'anzi, e quindi te lo segnalo. Molte altre cose sul Sole 24 Ore di oggi, ma vado alla svelta perché il tempo fugge e non ho voglia che tu mi faccia particolari auguri per il fine settimana, mi è già bastata la serata di ieri, quindi ti segnalo oggi naturalmente le pagine di Moda 24 perché è venerdì, e poi l'Unione Europea che farà ricorso contro il pedaggio che la Germania vuole imporre agli stranieri sulle sue autostrade. Sai che è stata, come no? Esatto, ne riferiamo oggi tra molte altre cose sul Sole. L'Unione Europea ha deciso finalmente che questa misura sa abbastanza di discriminazione all'interno della UE, e quindi presenterà ricorso. Come mai ti parlo di automobili e autostrade chissà, proprio ora? Chissà. Chissà, perché siamo arrivati all'augurio di un grande fine settimana, per soprattutto te, calcistico, sì, ma anche per te, e all'abituale saluto. Traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta Alessandro Milan, il Pikachu dell'informazione. Va bene tutto alle 7:49 minuti. Allora, Roma è ancora in primo piano per molti quotidiani. Il Corriere della Sera e Il Messaggero aprono su Roma. Soprattutto ci si concentra su ancora Paola Muraro, assessore all'ambiente. Contratti ad hoc, dati falsati nelle carte su Muraro, l'ombra di Mafia Capitale. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, che le 30 telefonate trascritte dai carabinieri del ROS allegate agli atti di un nuovo fascicolo in cui Muraro parla spesso con l'ex amministratore delegato dell'AMA, Panzironi, e con il direttore ex del generale dell'AMA, Fiscon. Beh, queste 30 telefonate aprono nuovi scenari possibili in procura e quindi Roma ancora nel mirino. Tra l'altro, nel giorno in cui dovrebbe essere nominato il nuovo assessore al bilancio, forse la volta buona, chi lo sa, staremo a vedere. Si tratta di un altro giudice contabile, stavolta in pensione, Tommaso Cottone, racconta Repubblica. Dovrebbe essere nominato anche l'industriale Massimo Colomban come assessore, questo non al bilancio, ma l'altro assessore che manca, non riesco a vedere la delega, ma comunque a Massimo Colomban, mentre Cottone al bilancio. Questi dovrebbero essere i due assessori mancanti nominati oggi a Roma, ma in realtà Roma torna in primo piano soprattutto per l'ex sindaco Ignazio Marino. Ricordate la vicenda degli scontrini, delle cene? E beh, i PM chiedono una condanna di Marino a 3 anni. 3 anni. È stato in carica 2 anni e ne rischia 3 di carcere. Vabbè, è chiaro che in carcere credo non ci andrà mai nel caso anche di una condanna. Comunque Ilaria Sacchettoni racconta, pagina 5 del Corriere della Sera, la procura chiede per Ignazio Marino una condanna a 3 anni e 4 mesi. Anche di più dunque di 3 anni. Complessivi per 2 vicende degli scontrini e della sua onlus Imagine. Gli avvocati contrattaccano parlando di indagini lacunose. Secondo l'accusa, l'ex sindaco avrebbe consumato 56 tra pranzi e cene nell'interesse suo di congiunti e altre persone non identificate, un totale di 13.000 euro con la carta di credito del comune. Moltiplicando esponenzialmente quella cifra, gli avvocati del Campidoglio, del guidato del 5 Stelle, chiedono oggi a Marino un risarcimento danni pari a 600.000 euro. Ah, ecco come risaniamo il bilancio di Roma in parte, chiedendo i soldi a Ignazio Marino. Comunque la vicenda ovviamente continuerà, la vicenda giudiziaria. In tutto questo, attenzione, Berlusconi allora va negli Stati Uniti, secondo Tommaso Labate che racconta pagina 6, la missione riguarda le TV, è un viaggio d'affari, così ha detto Berlusconi ai suoi, un viaggio d'affari, qualcun altro ha ipotizzato anche un check-up sulla questione salute. Invece Tommaso Labate sul Corriere della Sera dice una missione americana di Berlusconi con la carta Murdoch per la pay TV, cioè il tentativo di vendere a Murdoch, con il quale c'è stata una grande guerra segnata anche per i diritti della Champions League tolti da Sky e comprati da Mediaset Premium, un riavvicinamento tra il biscione e lo squalo Rupert Murdoch per ipotizzare anche la vendita della pay TV, la vendita di Mediaset Premium a Murdoch. Beh, staremo a vedere, vediamo se le indiscrezioni sono quelle giuste. Oh, che ha combinato invece, lo racconta Pierangelo Sapegno sulla Stampa, pagina 15, che ha combinato una famiglia, nello specifico la famiglia di Don Vincenzo 5 Granelle da Beinasco Torino, doveva sposare la figlia, doveva dare a lei una bella dote e allora si è organizzata una bella rapina in banca. Rapina di famiglia in banca per il regalo di nozze alla sposa. Il padre della ragazza organizza un colpo da 150.000 euro, ma viene arrestato il giorno del matrimonio. Cioè, fa questa rapina in banca insieme ai soci dicendo guardate che però ai soci, questa volta non ci spartiamo il bottino, questa rapina in banca serve perché devo sposare mia figlia, va bene, tutti fanno questa rapina in banca e domenica, il giorno del matrimonio, il tenente della compagnia Mirafiori suona alla porta di 5 Granelle con i suoi uomini in borghese e l'uomo li accoglie, oh venite finalmente, entrate, c'è la parrucchiera, prego, mia figlia è già pronta, voi siete i fiorai, giusto? Veramente siamo i carabinieri, saremmo qui per arrestarla. E a lei la vicenda raccontata anche con dovizie di particolari e sana ironia da Pierangelo Sapegno sulla stampa pagina 15 è questa: una rapina di 150 milioni, 150 mila euro, scusate, 150 mila euro per la dote della figlia. Va bene, siamo e vi segnalo un'intervista a Mino Raiola, il procuratore di calcio più famoso, una bella intervista sul Giornale, parla soprattutto di Balotelli, dice è Balotelli, ma è cresciuto in una città razzista, razzista. Brescia ringrazia per questa intervista di Mino Raiola sul Giornale. Ma siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile sui giornali è il robot che suona come i Beatles. Sul Giorno si racconta della nuova rockstar, è un algoritmo che presto farà un disco. Ma chi se ne frega!